Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Si è appena conclusa SPS Italia, la fiera dell'automazione industriale di Parma, settore che tra l'altro non va poi così male dal punto di vista del mercato. Si tratta di una di quelle fiere decisamente per addetti ai lavori. D'altra parte però sappiamo che questo settore, quello dell'automazione, che va dalla sensoristica alla robotica più avanzata, sarà fondamentale nella prospettiva proprio della Smart City. E allora noi ci siamo incuriositi, siamo andati a vedere se c'era qualcosa che ci potesse interessare da vicino e lo abbiamo trovato. Sentite. Pierpaolo Porta, tra i fondatori di Visilab, spin-off dell'Università di Parma, che ha dato vita ad un progetto che si chiama VIA, che ha compiuto un'impresa di cui si è parlato molto qualche tempo fa, con uno, in realtà più mezzi, più furgoncini, chiamiamoli dei porter, appunto, siete andati da Parma fino in Cina. Ma la cosa straordinaria, perché questo l'aveva già fatto Marco Polo mille qualcosa anni fa, è che l'automobile si guidava da sola. Esattamente, abbiamo quattro veicoli che nascono come dei porter piaggio elettrici che noi abbiamo elaborato, abbiamo montato il nostro sistema di pilota automatico, che ha permesso a questi veicoli di guidare in modo autonomo, quindi senza guidatore, non telecomandati, ma proprio in modo intelligente. Il veicolo sa decidere quali decisioni prendere lungo la strada, come appunto fa un guidatore umano. Questa storia che ci stai raccontando, insomma, ci porta immediatamente dentro una delle prospettive più affascinanti, anche di quelle più immaginifiche, più da film di fantascienza per intendersi: l'auto che si guida da sola. Il giorno in cui potremo salire sulla nostra auto e dirgli: bene, portami lì, e ci pensa lei. Beh, qui voi avete dovuto attrezzare questo mezzo con tutta una serie di sensori, perché il problema è far sì che l'auto percepisca quello che ha intorno. Allora, ci vuoi spiegare un pochettino che cosa avete dovuto mettere a bordo di questo mezzo per consentirgli di avere una percezione di quello che gli accadeva intorno? Assolutamente, come dicevi, uno dei problemi più difficili è quello di far capire al mezzo che cosa ha davanti e quindi che decisioni prendere. Nella parte frontale abbiamo quindi messo due tipi essenzialmente di sensori: telecamere e laser scanner, che poi vedremo in che modo sono stati accoppiati. Abbiamo messo due tipi di sensori perché entrambi hanno dei pro e dei contro, e quindi attraverso la fusione di queste due tecnologie questo ci ha permesso di prendere i pro di entrambe. Vi faccio un esempio: una telecamera che ha il sole puntato dritto nell'obiettivo non riesce a vedere al pressoché nulla, un laser scanner in condizione di abbagliamento se ne frega, è chiaro, però la polvere gli dà molto fastidio, mentre è una cosa che alle telecamere dà poco fastidio. Di conseguenza si riesce con l'unione dei due ad avere un sistema che è molto più robusto rispetto a uno basato su un singolo sensore. Allora, io qua per esempio vedo due telecamere piazzate sopra il parabrezza a una distanza di mezzo metro, forse anche qualcosa di più. Cominciamo da qui. Esatto, questo è un sistema stereoscopico, il che vuol dire che ha due telecamere, formato da due telecamere, un po' come gli occhi umani, che sono, mentre gli occhi di un umano sono distanti 10 cm, questo è distante mezzo metro. E in base alla, spiegato proprio molto semplicemente, in base alla differenza che percepisco tra uno stesso oggetto visto da due inquadrature diverse, io riesco a percepire la distanza. Esattamente, il lavoro operato che si fa nel cinema 3D, cioè si usa una telecamera doppia, poi si mandano due immagini, si fa sì che l'occhio destro veda un'immagine e l'occhio sinistro veda quello ripreso dall'altra telecamera. E naturalmente questo porta però ad avere minore visibilità vicino al veicolo, ma questo naturalmente è una cosa che ci può tranquillamente aggirare utilizzando i laser scanner che appunto abbiamo sotto. Come dicevo prima, appunto questo è un esempio di fusione sensoriale. Ecco, questi laser scanner sono degli apparati che si trovano praticamente inglobati questa volta nel paraurti. Diciamo più o meno che cos'è questo laser scanner e a che cosa vi serve. Sì, un laser scanner essenzialmente è come una lama che taglia a una certa altezza quello che si trova davanti a lui. Quindi, virtualmente, senza far male a nessuno. Certo, quindi quello che io ottengo è il profilo degli oggetti che ho davanti. Per intenderci, una persona umana che si trova davanti a un laser scanner, se il laser scanner è all'altezza delle gambe, sarà rappresentato con due semicerchi, che sono appunto quello le che ginocchia, è... ginocchia, la parte davanti delle ginocchia, per intenderci. Esattamente. Un altro sistema invece che abbiamo, sempre nella parte frontale, è un sistema panoramico, formato da tre telecamere, messe in modo che riescano a coprire una zona pari a quasi 180 gradi di visuale. Questo è un sistema che è servito per seguire il veicolo davanti e seguirlo anche in curve molto strette. E naturalmente abbiamo dovuto affrontare anche passi di montagna, passare gli Urali, eccetera, e i tornanti naturalmente ci sono e sono belli, belli stretti. Quindi in questo modo, attraverso questo sistema panoramico fuso insieme ai laser scanner che sono all'interno del paraurti, anch'essi tre laser scanner, quindi uno in posizione centrale e due laterali, permettono di seguire il veicolo anche durante curve molto, molto strette. Ecco, siccome automobili che si guidano da sole in giro per le strade per un po' di tempo, temo che comunque non ne vedremo, che tipo di applicazioni possiamo aspettarci concrete a breve sulla strada per queste tecnologie sulle quali state lavorando? Allora, per quanto riguarda appunto la guida, diciamo, di tutti i giorni, la tecnologia di guida automatica appunto ha diversi problemi, non ultimo quello legislativo, mentre però i mattoni di cui è fatto un veicolo automatico, quindi i mattoni percettivi, possono essere già direttamente applicati ai sistemi di guida assistita, cioè il guidatore è a bordo e la macchina lo aiuta a guidare. Quindi se io voglio trovare le linee della strada, posso volerle trovare perché non c'è nessuno a bordo e quindi le devo seguire, oppure posso volerle trovare perché io mi addormento e la macchina mi deve avvertire se sto andando nel fosso. Quindi i mattoni percettivi sono gli stessi. Sono esattamente gli stessi, cambia l'utilizzo che si fa dell'informazione una volta raccolta. Esattamente, cambia il fine. Se invece vogliamo tornare sul ramo veicoli automatici, l'applicazione più immediata è quella in altri ambienti, per esempio l'agricoltura. Infatti noi stiamo collaborando anche in quell'ambito per aggiungere la nostra tecnologia, quindi la percezione, all'interno di trattori automatici, che quindi permettono di operare per lungo tempo, mettiamo anche di notte, 24 ore su 24, su campi molto estesi e di conseguenza senza l'utilizzo dell'uomo, che in quel caso fa volentieri a meno di stare a bordo macchina. E poi senza bisogno di andare nello spazio, immagino porti. Assolutamente, in tutti i casi in cui c'è un ambiente, diciamo, un po' più strutturato, un po' più controllato, per esempio già in ambienti abbastanza strutturati come la guida in autostrada, la guida automatica vede già alcune applicazioni. Questa sera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, buona serata.